ci ha presentato, lei che ci ha presentato. Ancora noi vicini, si intrecciano più forte le mani, eppure ti conosco, che sciocchezza morire per il tempo di un disco. La stessa idea di andare tutto in asse e andar via, adesso non mi sembra follia, l'amore con te, la macchina ferma una sera d'estate. Ancora innamorati, nascosto il desiderio s'accende, perché è proprio con te che sei quello sbagliato, il mio corpo. Ho proprio gli occhi nel buio.